Contenta, se me scontenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri, e tutti gli altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa! E allora eccoci qui, ben ritrovati e ben ritrovate dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, un'altra puntata di Impatto, voci contro le nocività. Allora andiamo con la scaletta di oggi, cominceremo parlando della situazione a Capua, buone e cattive notizie dal ridente comune campano. Ci sono un po' di buone notizie riguardo il gassificatore che intendevano costruire ed altre meno buone riguardo progetti presentati per centrali a biomasse. Feel the funk, yo. Let it flow. E sempre in tema di rifiuti passiamo agli aggiornamenti per quanto riguarda la Regione Lazio e la pessima condizione in cui versa per esempio la discarica di Malagrotta. Alcuni aggiornamenti su Malagrotta, alcuni aggiornamenti sul decreto Clini, sul diciamo tutte le mistificazioni di questo decreto sul trattamento dei rifiuti, aggiornamenti sulla Tares perché i comuni cominciano ad attrezzarsi contro i famigerati furbi che vorrebbero eludere o quantomeno autoridursi questa bolletta, e parleremo poi di dell'incontro che doveva esserci in regione del presidio che c'è stato lo scorso venerdì dei comitati contro i rifiuti del Lazio. Passeremo poi ad un aggiornamento sull'Ilva per quanto riguarda il commissariamento di questa azienda. Parleremo anche dell'esposizione che farà il comitato Rifiuti Zero di Fiumicino contro la centrale a biogas e biomasse di Maccarese, ed in ultimo vi leggeremo la lettera di risposta che i compagni in lotta a Istanbul e dalla Turchia hanno scritto ai Notav. Kept me down on Rampart Street. I seen everybody that I wanted to meet. She said, hey Johnny, stop and listen to me. They got something to knock you off of your feet. It's called a... E andiamo a parlare della Campania. Insomma, la Campania è di nuovo al centro delle multe che l'Unione Europea si trova nuovamente ad affibbiare al governo italiano. Infatti la Commissione Europea entro il 20 giorno si pronuncerà nuovamente per quanto riguarda la gestione dei rifiuti campani. Infatti per quanto si prospetta è una nuova ondata di multe che subirà il governo italiano, nonostante lo scorso 24 maggio il neo ministro dell'ambiente Orlando avesse incontrato il commissario UE referente di questa questione e gli avesse assicurato che avrebbe preso dei provvedimenti in maniera molto veloce. È ovviamente poco probabile che entro il 20 giugno ci siano dei cambiamenti sostanziali per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in Campania, quindi aspettiamoci questa nuova multa di vari euro dalla Commissione Europea. E poi andiamo a parlare nello specifico di Capua. Infatti, sempre per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l'azienda campana è stata commissariata di recente. Il delegato Marco Ricci, il consigliere delegato Marco Ricci dell'azienda, infatti è stato sollevato dall'incarico e è stato messo al suo posto il segretario del prefetto di Caserta. Per quanto riguarda invece il gasificatore di Capua, abbiamo delle buone notizie che non vorrei anticipare con cui andiamo a parlare direttamente con Massimiliano. Buonasera a tutte e tutti. Sì, diciamo che le notizie non sono mai completamente buone quando si parla di nocività. Sulla lotta al gassificatore pare, anche per scaramanzia, non annunciamo definitivamente un voler abbandonare il progetto da parte della regione, ma abbiamo ottime notizie. Vedremo il 15, quindi sabato prossimo, c'è questa iniziativa popolare di massa lì a Capua per ufficializzare quello che per noi sembra essere un risultato positivo dopo un anno e mezzo di lotte e di mobilitazione, dopo aver fatto dimettere un assessore provinciale all'ambiente, dopo aver portato anche nel comune di Capo un po' di scompiglio, sia grazie alle lotte, ma in generale grazie a tutta la comunità capuana che in modi diversi, con forme diverse, ma ha puntato a stoppare questo progetto. Vabbè, la notizia magari non sarà ufficiale, però insomma noi ci rallegriamo di questa ufficiosità. E poi è divertente notare che il 15 in contemporanea ci sarà una manifestazione contro l'inceneritore di Parma, quindi per una volta un po' la situazione nord-sud sembra ribaltata, cioè il sud riesce a bloccare dei progetti che invece al nord continuano ad avere piede. Sì, sostanzialmente c'è ancora tantissimo da lavorare, ci facciamo forti però di questi piccoli grandi risultati, così come sono state le vittorie nell'Alto Casertano degli anni scorsi, così anche questa sul gasificatore ci servirà per affrontare le prossime battaglie che sicuramente saranno molto molto più impegnative, a cominciare da una centrale a biomasse che vorrebbe sorgere a Calvi Risorta, sempre in provincia di Caserta. A tal proposito, proprio oggi pomeriggio alle 6:30 a Calvi Risorta c'è un'assemblea popolare nella villetta comunale per iniziare a muovere i primi passi di lotta e in generale per tutta la questione delle nocività e del biocidio in Campania. Se è pur vero che in alcune zone i movimenti sono forti, si riesce a mettere delle bandierine, a segnare dei punti, dall'altro lato sappiamo bene che da oltre 20 anni l'attacco è molto, molto grave e quindi bisogna comunque porsi come ottica l'orizzonte di un movimento complessivo campano di tutta la regione che vada a mobilitarsi e innescare conflitti sulle nocività e a difesa dei territori. Sì, infatti prima accennavamo al problema dei rifiuti in Campania, che insomma pare che la Commissione Europea stia per dare nuove multe al governo italiano per quanto riguarda appunto lo smaltimento, ma in Campania la situazione, insomma tutta l'emergenza rifiuti che aveva fatto tanto parlare di sé gli anni precedenti, cioè si è un po' smorzata oppure semplicemente non è più alla ribalta delle cronache, ma in realtà insomma continua a avere la stessa realtà di sempre. Sì, non ci sentiamo di darne una lettura già chiara di quello che sta succedendo. Come ben sanno anche i compagni che ascoltano Ror e che ci sentono ogni tanto, comunque ne abbiamo sempre dato una lettura di classe di quello che succede in Campania sul piano delle nocività, a cominciare dalla questione degli sversamenti illegali di rifiuti industriali da fine anni 70, inizio anni 80, al business delle discariche che poi si è trasformato nel business dell'impiantistica con i CIP 6. Quella che ci vediamo noi adesso, la regione continua a millantare dei progressi per quanto riguarda la raccolta differenziata, noi in realtà poi sui territori vediamo che non è proprio così, che discariche abusive, sversamenti abusivi e roghi continuamente e quotidianamente. Dall'altro lato pensiamo che questo sbandierare buone notizie da parte della regione e della controparte anche industriale sia un po' anche strizzare l'occhio a questa grossa torta che si accinge ad arrivare in Campania, che è quella delle bonifiche, che poi sappiamo bene come come funzioneranno, come appunto la bonifica di Bagnoli o come tutte le bonifiche fatte in Campania. Sappiamo bene che sta arrivando un bel pacchettone di milioni di euro che questi signori gestiranno. Io penso che il ruolo delle rotte appunto non si esaurisce, non si esaurirà esclusivamente sull'opposizione a questi progetti, ma